أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابوا أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم. Buongiorno Palestina, oggi abbiamo in studio Edoardo del CPA di Firenze Sud. Perché ci interessa in particolare parlare oggi con Edoardo? Perché è appena tornato dal viaggio in Palestina. È un viaggio questo che hanno fatto un gruppo di persone e a seguito del quale faremo una serie di trasmissioni, come abbiamo già annunciato. La volta scorsa abbiamo parlato dei campi profughi con Silvia e Marina, oggi ne parliamo con Edoardo. Ora, perché, ripeto, ci interessa in particolare parlarne con Edoardo? Perché il CPA è da sempre impegnato sulla Palestina, è un impegno che dura, credo, da qualche decina di anni. Comunque, questo ce la dirà meglio Edoardo, al quale passiamo direttamente la parola. Prego. Salve a tutti, sì, come veniva detto nell'introduzione, è da tempo che siamo impegnati come realtà collettiva nella solidarietà internazionale e nella solidarietà nei confronti del popolo palestinese. E per quanto mi riguarda, e sicuramente non è una cosa riguarda me stesso e basta, era importante verificare di persona quello che nella solidarietà quotidiana veniva portato avanti. E quindi andare in Palestina mi ha dato la possibilità di mettere a confronto quello che pensavo e quello che anche soggettivamente e oggettivamente viene portato avanti rispetto a quello che ho potuto vedere con i miei occhi. Ecco, io ricordo dei tabelloni e una mostra che organizzò il CPA qualche anno fa, e che mi fece capire molte cose sulla Palestina. Io vorrei chiederti in particolare, rispetto all'immagine che tu avevi e l'immagine e alle conoscenze che avevi, che cos'è che ti ha sorpreso o che hai trovato di nuovo? Sì, è stato importante perché, come accennavo, quello che avevo in mente è stato inferiore rispetto a quello che ho visto. Inferiore nel senso che purtroppo, e questo credo sia importante per tanti che danno solidarietà a poter andare in Palestina e verificare con i propri occhi che cosa significa e cosa vuol dire l'occupazione. Tenere sotto occupazione un popolo che viene oppresso quotidianamente, credo sia estremamente importante vederlo con i propri occhi. Cioè sapere, un conto è essere qui e sapere che c'è un popolo sotto occupazione, un conto è poter riuscire a essere in Palestina come in altre realtà che vivono l'occupazione e capire che cosa significa, capire e vedere che ci sono i militari israeliani che camminano in maniera continuativa andando avanti e indietro con i mitra spianati, per esempio a Hebron che ci sono le reti a proteggere i vicoli, nemmeno le strade, i vicoli dei palestinesi per evitare che l'immondizia lanciata dagli israeliani possa raggiungere il mercato palestinese. E quindi verificarlo con i propri occhi sicuramente è molto importante e è la differenza fondamentale che almeno io ho vissuto, vederla con i propri occhi rispetto a quello che ho sempre pensato. Ecco, avete avuto incontri poi lì, avete parlato con organizzazioni palestinesi, avete parlato con, perché i palestinesi anche a loro volta sono articolati al loro interno, quindi avranno anche posizioni diverse rispetto alle iniziative da svolgere o da come o sulle forme di resistenza da sviluppare. Che cosa mi dici a riguardo? Sì, anche questo è stato un altro degli elementi che mi ha arricchito nella conoscenza, perché abbiamo potuto individuare il fatto che c'è un elemento comune che unisce tutti i settori del popolo palestinese, quindi tutti anche gli orientamenti politici e religiosi, è quello di essere contro l'occupazione. Ovviamente all'interno, come veniva accennato, ci sono delle differenze. Abbiamo fatto anche degli incontri che hanno fatto capire queste differenze, nel senso ci sono, possono essere differenze religiose, differenze politiche, però come dicevo l'obiettivo è unico e probabilmente ci sono dei tempi e delle modalità che li differenziano, però quello che abbiamo potuto verificare è che le forme di resistenza sono veramente tante, dalle cooperative di donne al teatro, appunto all'opposizione politica, possa essere non violenta, ma come la scelta della lotta armata. E da questo punto di vista, anche in questo caso qui, ripeto, è estremamente conoscitivo e importante aver fatto questi incontri. Avete parlato anche con organizzazioni giovanili, perché il fatto di essere giovani penso che sia estremamente, cioè è difficile dappertutto, anche da noi, ma da loro, cioè in Palestina, penso che sia una cosa particolarmente gravosa e pesante. Quindi una cosa che ti volevo chiedere era se sulla condizione dei giovani avete parlato o avete verificato, e in particolare se avete parlato solamente con persone dei campi profughi o anche persone e organizzazioni che operano al di fuori dei campi profughi nella Palestina occupata. Sì, abbiamo parlato con tutte e due, diciamo, queste situazioni, sia con palestinesi che da anni ormai, da decine di anni, vivono nei campi profughi, e sia con palestinesi che portano la solidarietà alla lotta che viene fatta quotidianamente, ma che non vivono nei campi profughi. Quando accennavo per esempio alle cooperative di donne, sono cooperative che non sono all'interno dei campi profughi, ma vivono all'esterno. Nonostante vivere all'esterno, però questo non significa di non portare avanti la resistenza contro l'occupazione israeliana. Per quanto riguarda i giovani, anche questo è un elemento molto interessante, perché nonostante i tentativi di normalizzazione da parte di Israele, i palestinesi invece continuano in maniera tenace a portare avanti la propria resistenza, e a partire proprio dai giovani. Dentro l'università ci sono forme di mobilitazione che qui non conosciamo o le conosciamo male, ma che invece tramandano non solamente la memoria di che cosa vuol dire essere occupati e resistere, ma anche le forme di resistenza pratica sono portate avanti dai giovani stessi che si stanno mobilitando all'interno delle università e quindi anche dentro la società palestinese. Ecco, ci parli di università. Ecco, in quali università siete stati e quante università ci sono nella Palestina occupata? Voi siete stati a dove? Mi pare che ce ne sia una a Gerusalemme, un'altra, c'è cioè Birzeit, che non so bene dove sia. Spiegalo un po' agli ascoltatori. Sì, non è che siamo stati proprio dentro l'università, però quella appunto di Birzeit è l'università quella più famosa e quella più importante, dove ci sono le forme di resistenza più attive e più forti. Quello a cui accennavo prima, appunto rispetto alle capacità dei giovani di mobilitarsi in solidarietà e contro l'occupazione, in solidarietà con il popolo palestinese e di opporsi all'occupazione israeliana, ci sono state raccontate nei vari incontri, nel senso che per esempio con gli incontri con la sinistra palestinese ci hanno detto in maniera molto esplicita e molto chiara che anche da parte loro hanno molta fiducia e hanno molto consenso all'interno della componente giovanile. Facciamo un breve intervallo musicale a questo punto e riprendiamo tra poco su un argomento che mi interessa in particolare. حينما acqua si diceva. Allora, uno degli argomenti di cui si parla di più è la questione dell'acqua. Ne abbiamo parlato anche a proposito nella trasmissione sul Libano, in cui è stato detto che la questione dell'acqua del fiume Litani è fondamentale. Cioè Israele, tutti i suoi attacchi che ha fatto finora nel Libano e sono stati volti a impossessarsi dell'acqua del Litani. Ecco, ma per quanto riguarda la Palestina occupata, come si vede, come si vive, come appare la questione dell'acqua? Voi avete, non dico sofferto la sete, ma in qualche maniera avete vissuto una limitazione nell'uso dell'acqua o ne avete visto aspetti appariscenti? Sì, abbiamo visto anche in questo caso siamo stati testimoni di che cosa significa la negazione di un diritto fondamentale, la negazione dei diritti alle risorse idriche, elettriche e anche di altro tipo. E lì in Palestina l'abbiamo visto veramente e l'abbiamo toccato con mano, perché faccio un esempio molto che può essere considerato sciocco, ma credo che renda bene l'idea. Abbiamo avuto nei giorni che siamo stati in Palestina sempre un tempo molto, molto bello, quasi estivo. A differenza nostra, che eravamo contenti di questo tipo di stagione, per i palestinesi invece questo non era un sintomo di tranquillità e di allegria, perché loro speravano che piovesse, perché per loro la pioggia vuol dire poter acquisire dentro i serbatoi di acqua che, se uno alza un po' la testa dal proprio cammino, vede che le case dei palestinesi sono tutte con dei serbatoi d'acqua sopra il tetto e sperano che piova, perché appunto possono immagazzinare l'acqua che altrimenti loro non hanno diritto a poterla avere. Da parte nostra, forse perché in quanto tra virgolette turisti o comunque stranieri, non abbiamo avuto problemi di acqua, però la popolazione che è presente in Palestina purtroppo ha questo problema di approvvigionamento dell'acqua. E per quanto riguarda il lavoro, invece, lavorare vuol dire potersi muoversi, potersi spostare. Quale avete avvertito in qualche maniera la difficoltà di spostarvi? E voi in particolare, come gruppo, avete trovato checkpoint? Avete dovuto passare punti di posti di blocco? E quanti? E quanto frequentemente? Sì, ora parto dal secondo aspetto. Per chi va in Palestina si accorge, come accennavo all'inizio, di che cosa vuol dire l'occupazione. Perché, per esempio, per quanto mi riguarda, sono stato 30 anni fa in Irlanda del Nord, quando c'era l'occupazione da parte dell'Inghilterra, e mentalmente ho fatto un paragone. E ci sono delle situazioni molto simili, per esempio i checkpoint, come veniva accennato, che sono frequentissimi in Palestina. Come lo erano in Irlanda del Nord. Ci sono delle differenze, perché ovviamente anche la tecnologia militare sicuramente è superiore di quella di Israele di oggi rispetto a quella che poteva essere l'Inghilterra di 30 anni fa, però è molto pressante. Io sentivo i commenti anche di non tanto dei palestinesi, ma delle persone che erano con me o anche di altri stranieri, che questa presenza oppressiva da parte dei militari israeliani, nonostante volesse essere rassicurante, invece metteva quasi più in difficoltà la tranquillità quotidiana nostra, che ci sentiva quasi minacciati da questa presenza più che essere tranquilli. Mentre per quanto riguarda la questione del lavoro, è una questione che abbiamo anche questa l'abbiamo potuta verificare di persona, perché uno dei problemi che i palestinesi mettono in considerazione rispetto a possibili nuove proteste che loro danno abbastanza per possibili nel prossimo futuro, è quella che tantissimi palestinesi lavorano negli insediamenti israeliani e per gli israeliani, e quindi sanno che sono ricattabili, perché qualunque protesta possa avvenire in maniera anche molto forte, come può essere stata l'intifada di qualche anno fa, sia la prima che la seconda, metterebbe a repentaglio sicuramente il posto di lavoro per tanti palestinesi. E nonostante questo, i palestinesi sono convinti che prima o poi sicuramente scoppierà di nuovo una protesta veramente forte, perché tutti i palestinesi vogliono in tutti i modi che la Palestina torni libera. Ecco, c'è stata. Hai fatto bene a ricordare l'Irlanda. Perché attualmente Irlanda e Sudafrica sono i paesi che più decisamente, più convintamente appoggiano la causa palestinese, non naturalmente l'Irlanda del Nord, ma l'Irlanda del Sud, con anche il sindaco stesso di Dublino, il Consiglio Comunale di Dublino che ha votato a favore del boicottaggio di Israele. Insomma, sono questi due paesi che hanno sperimentato che cos'è l'apartheid, che l'hanno vissuto sulla loro pelle, oggi appoggiano la causa palestinese in modo senza se e senza ma. Un'ulteriore cosa riguarda diciamo, questa attesa di una nuova rivolta, chiamiamola così. Ecco, questa c'è stata una prima intifada, una seconda intifada. C'è stata una rivolta che è stata chiamata l'intifada dei coltelli. Sono stati momenti di rivolta di diverso, di molto diverso tipo. Cioè, la prima intifada è stata una intifada in cui venivano usati solamente i sassi. La seconda è stata una intifada armata anche da parte palestinese. Ecco, le forme di lotta attuali, quelle di cui si parla molto, sono forme di lotta anche non violente, violente e non violente. Ecco, su questo vorrei una tua valutazione, o se ne avete parlato lì, magari dopo l'intervallo musicale ne parliamo. Allora, forme di lotta. Perché avete avuto degli incontri con organizzazioni, mi ha detto, sia organizzazioni ONG, organizzazioni umanitarie, ma sia anche con organizzazioni politiche, e avrete parlato delle forme di lotta. Ecco, che cosa ci si può aspettare? Qual è la valutazione che viene fatta sulle diverse forme che può avere la resistenza palestinese oggi rispetto a una situazione di occupazione? Sulle forme di lotta c'è una condivisione sul fatto che una non esclude l'altra. In questo momento, come accennavo prima, tutte le forme di lotta che sono presenti nei territori palestinesi e che sono portate avanti da organizzazioni anche diverse fra loro, però sono, diciamo, usando un termine, sono rispettate da tutti, nel senso che viene riconosciuto che ogni forma di resistenza in questo momento ha il valore di per sé, in quanto resistenza, in quanto capacità di poter produrre ancora meglio le forme di resistenza. E quindi sono tutte accettate. C'è una disillusione forte da parte di quelli che abbiamo incontrato tante persone, tanti palestinesi, rispetto all'autorità nazionale palestinese, rispetto al fatto che hanno firmato i famosi accordi di Oslo e che tutti giudicano come purtroppo un elemento negativo rispetto all'attualità di oggi, nel senso che quasi tutto quello che abbiamo visto dalle forme di oppressione, il muro che abbiamo visto che è stato costruito. Sono tutte forme che vengono giudicate come conseguenza di quell'accordo. E quindi appunto c'è una forte disillusione nei confronti della leadership, o quantomeno di quello che veniva ritenuto un tempo la leadership palestinese dell'autorità nazionale, ma c'è nonostante questo c'è una volontà comune di trovare delle iniziative che possono produrre sicuramente una ripresa del popolo palestinese del proprio terreno. Prima hai parlato di militari israeliani che girano praticamente indisturbati nella Palestina occupata, ma e a proposito dell'autorità palestinese, l'autorità palestinese ha una propria polizia. Ecco, questa si vede in giro, appare, ne avete parlato, cioè, ha una qualche immagine nei confronti, insomma, da parte di coloro con cui avete parlato? Sì, e si vede anche, cioè si vedono i poliziotti palestinesi, però sia da parte nostra, diciamo, non conoscendo la realtà, ma anche dietro a quello che ci è stato detto, ha una funzione solamente quasi da paragonabile a quello che potrebbero essere i vigili urbani nelle nostre città, nel senso che al di là di un'autorità più o meno riconosciuta, poi sul terreno chi comanda e chi decide e chi controlla sono gli israeliani. Tenendo in considerazione che anche tanti militanti politici palestinesi sono in galera nelle prigioni palestinesi. Ecco, per quanto riguarda invece la situazione nelle campagne, voi avrete girato sia nelle città che nelle zone rurali. Ecco, che cosa avete rilevato? Avete visto questioni di rapporti con i coloni israeliani? Ne avete visti di coloni e di colonie israeliane? Come si presentano e quali sono i rapporti che avete rilevato? Sì, purtroppo le colonie e i coloni ne abbiamo visti tantissimi e forse anche in maniera esagerata, nel senso che anche quella è un'altra forma di oppressione, oltre a quella militare che è visibile, anche quella dei coloni e degli insediamenti è un'altra forma di oppressione molto visibile. E i rapporti ovviamente tra palestinesi e coloni sono inesistenti. Tenendo in considerazione che addirittura i coloni sono foraggiati e sostenuti economicamente e politicamente dal governo di Israele, nonostante che ci sono state tante risoluzioni dell'ONU rispetto al diritto internazionale in cui Israele viene condannato perché non può costruire insediamenti nei territori palestinesi che sono i cosiddetti territori occupati. Nonostante queste condanne da parte dell'ONU, Israele sta andando avanti e quindi ci sono anche dei meccanismi molto strani, nel senso che si parte con degli insediamenti che a volte è un'occupazione di una casa su un terreno per far vedere che poi piano piano invece il settore dell'insediamento si allarga. È quasi uno stato di fatto, nel senso che viene fatta un'occupazione e poi appunto si allarga a essere un insediamento. Mentre per quanto riguarda il discorso dei contadini, abbiamo visto la questione famosa degli ulivi che viene. Anche questo è un simbolo perché gli olivi vengono sradicati da parte degli israeliani, degli ebrei, vengono sradicati perché gli olivi sono un simbolo anche questo di resistenza, un simbolo di resistenza che dura da anni e lo sradicamento degli olivi vuole essere un segnale per far capire che in quella terra non ci sono stati i palestinesi, non ci saranno i palestinesi, che non ci dovranno essere e solamente gli israeliani ci possono stare. Ecco, c'è questa questione della cancellazione della memoria, no? Mi pare. Ecco, questa si rileva anche nelle forme di urbane, nell'edificazione, nel tipo di costruzioni che vengono fatte? Sì, esatto. Infatti addirittura c'è un tentativo, nemmeno tanto nascosto, anzi forse molto esplicito da parte di Israele, di cambiare addirittura i nomi alle città, alle strade, cambiare i nomi proprio perché è nella direzione di cancellare la memoria, nel senso che se si cambia ovviamente un nome si capisce che è come se si partisse da zero, quando invece da zero in Palestina non si parte perché i palestinesi ci sono stati, ci saranno. E quindi cambiare i nomi c'ha questo tipo di significato, di tentativo appunto di sradicare la memoria. Invece, per fortuna, i palestinesi, nonostante che questo tentativo da parte dell'occupazione stia andando avanti, mantengono, nonostante tutto, mantengono fede e mantengono quelli che sono i propri nomi e le proprie abitudini. Ecco, allora conclusivamente, Edoardo, dici un po' che cosa ti ha cambiato l'andare in Palestina e se ne è valso la pena. Sì, ne è valso sicuramente la pena e anzi, per quanto possa servire, ovviamente può servire il giusto, ma comunque consiglio a tutti quelli che sono solidali, ma anche a chi ha poche conoscenze rispetto a questa questione, di andare in Palestina e di rendersi conto con i propri occhi di che cosa significa, perché anche per me ha voluto dire un'acquisizione di conoscenza e di coscienza. La mia coscienza politica rispetto al problema palestinese, sicuramente con questo viaggio è andata ad accentuarsi e quindi sono state anche emozioni forti di quelle che ho visto, che ancora ho dentro di me, e quindi per questo consiglio vivamente di andare, perché un conto è come quando abbiamo iniziato questa chiacchierata, un conto è essere solidali e è importante, ci mancherebbe altro. Da qui, rispetto al popolo palestinese, sicuramente l'andare in quei territori sicuramente può aiutare ancora di più la nostra solidarietà. Ecco, voglio ricordare a proposito delle forme di resistenza di cui parla si parlava poc'anzi, che la resistenza rispetto a un'occupazione è un diritto sancito dalle norme internazionali e dalle Nazioni Unite. Ora, quando viene detto, è nel parlare comune, che viene negato a Israele il diritto di esistere, è una cosa del tutto ridicola quando Israele sta negando l'esistenza proprio dei palestinesi. Questa tua esperienza, Edoardo, che hai fatto in Palestina, la fanno molti altri che viaggiano in Palestina. Organizziamo viaggi in Palestina collettivi, noi come organizzazioni che parlano da Radio Wombat. Amicizia italo-palestinese e Assopace Palestina, potete mettervi in contatto con noi attraverso Google, attraverso internet e anche molte altre organizzazioni in Italia. E quello che i palestinesi ci dicono quando andiamo è raccontate quello che avete visto. E quello che si vede andando lì è qualche cosa che la televisione italiana non vi farà purtroppo mai vedere. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo del vostro ascolto, ringraziamo Edoardo per essere stato qui e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alla stessa ora. Grazie. في ظلكم قابوس عزي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مدرسة عربية أرابية في ظلكم واخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء